Eccoci a visionare il cinema su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Per ascoltarci in diretta, per ascoltarci in streaming, basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è ascolta la diretta. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sia sul sito alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook Visionari. Cominciamo con Valentina Damiani, organizzatrice della sesta edizione del Via Emilia Doc Fest, il festival del documentario online. Partito il 21 settembre, andrà avanti fino al 2 novembre. Valentina, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie per averci ospitato, insomma, anche quest'anno. Anche quest'anno. Per chi ci ascolta, di cosa si tratta? Cos'è questo festival online? Allora, un festival che ormai è al suo sesto anno e praticamente comporta la visione di documentari online per un mese. Sono documentari di o filmmaker esordienti, emergenti, oppure anche già affermati, che hanno già vinto insomma parecchi premi internazionali e nazionali. È una soluzione anche al fatto che il documentario è sempre poco visibile, o comunque si può vedere sempre in circuiti festivalieri, ecco. In questo modo si dà la possibilità di dare a tutti, cioè la possibilità per tutti di vedere insomma qualche cosa di inedito, uno sguardo sulla realtà particolare, ecco. Senti, la scelta di questi 21 titoli proposti per questa edizione? Sì, la scelta è sempre difficile, ogni anno veramente non sappiamo mai come fare, però vabbè, cerchiamo ogni volta di avere un comitato di selezione omogeneo e che riesca a cercare insomma di trovare un equilibrio tra tutti i vari documentari che ci arrivano, perché ne arrivano sempre più di 100, 150, ecco, quindi non è facile. E cerchiamo di, non è sulla durata, nel senso che pensiamo che un bel documentario sia anche quello di 5 minuti, per dire, specialmente sul web, ma quello che cerchiamo di selezionare è magari la tematica, ovviamente, che deve essere una tematica magari molto di attualità oppure comunque di curiosità, capito? Quindi una cosa un po' più particolare, e poi selezioniamo ovviamente anche la qualità, perché ormai, cioè, ormai con i mezzi che si hanno, la qualità insomma bisogna sempre darci un occhio, ecco. Senti Valentina, le tematiche più ricorrenti, se ce ne sono, tra i lavori proposti? Ok, guarda, allora quest'anno è successo che in realtà le tematiche sono tutte più o meno diverse. Bene. Gli altri anni, specialmente l'anno scorso, avevamo ritrovato proprio una comunione, perché tutti parlavano di questo ritorno alla terra, perché effettivamente c'era l'esigenza. Quest'anno invece le tematiche sono svariate, perché si parla, vabbè, di frontiere, di poesia, di circo, immigrazione, emancipazione delle donne, Siri ovviamente, perché periodo, diciamo che questo... quest'anno insomma non si può che non parlarne, oppure anche di vecchie figure del cinema, come per esempio i vecchi proiezionisti, la pellicola, che per un festival come il nostro, no? Che è online, abbiamo pensato di inserire anche questa tematica qua, insomma. E la camorra, la vita di strada, insomma quest'anno le tematiche sono varie. Bene, bene. Senti, allora a questo punto ci dai tutti i riferimenti per partecipare? Sì, allora, perché ora diciamo che tocca al pubblico, perché ovviamente il Via Emilia Doc Fest ha tre premi, no? Il premio della giuria, il premio del pubblico, il premio di cinemaitaliano.info e anche un ultimo, che è il premio DEF. Però è che ovviamente insomma ora noi richiediamo la partecipazione del pubblico, che deve votare il miglior documentario, quindi basta andare sul sito, che è www.emiliadocfest.it. Benissimo. E si trovano tutti i documentari. Poi i selezionati, cioè i vincitori, verranno ovviamente premiati a novembre, il 7 novembre a Modena, in occasione del Via Emilia Doc Fest, che è l'evento territoriale che facciamo ogni anno. Bene. Che quest'anno ospiterà anche un omaggio a Claudio Caligari, che è un regista che è recentemente scomparso. Esatto. Bene, siamo contenti. sì. A questo punto, visto anche che i contatti dei registi ce li hai dati, proveremo anche a sentirli nel corso di questo mese, così ci illustrano meglio i lavori che sono visibili sul sito del Via Emilia Doc Fest. Io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie a te e alla vostra radio. A presto Valentina, ciao. A presto, grazie, ciao. Valentina Damiani, organizzatrice della sesta edizione del Via Emilia Doc Fest, il festival del documentario online, cominciato il 21 settembre fino al 2 novembre. In collegamento abbiamo Stefano Massari per quanto riguarda il documentario Valsamoggia, la vita attorno a un tavolo, che sarà proiettato a Balzano il prossimo sabato 26 settembre. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'ospitalità, ciao a tutti. Allora, fa parte intanto di un progetto articolato che mette insieme il teatro, il cinema e la cucina, giusto? Diciamo che è un progetto che abbiamo immaginato subito dopo un fatto diciamo amministrativo politico che è accaduto qui sul nostro territorio. 5 comuni di questa valle si sono fusi praticamente in un'unica amministrazione e come succede quasi sempre, questo fatto è stato oggetto di insomma fermento politico, culturale, sociale, comunque di una certa agitazione. Diciamo che la discussione è sempre stata di tipo tecnico, di tipo amministrativo, burocratico, e noi ci siamo trovati un po' a ragionare su questa vicenda che ci ha coinvolti in quanto cittadini, lavoratori su questo territorio da tanto tempo, e abbiamo pensato che forse con le nostre capacità, con le nostre operatività potevamo dare un contributo umano, cioè ritrovare un po', far ritrovare un po' a tutti il gusto un po' dell'incontro, del dialogo, del conoscersi finalmente in una situazione che si vorrebbe nuova. Senti, per dirla un po' molto in sintesi, il teatro è quello del teatro delle Ariette. Per chi non lo conoscesse, ci vogliamo aggiungere qualche parola per raccontarlo in breve? Beh, il teatro delle Ariette è un'esperienza che diciamo va avanti da 25 anni ed è nata su questo territorio, in Valsamoggia, Castello di Serravalle, ed è un'esperienza di teatro molto particolare, molto diversa diciamo da quello che può uno immaginare parlando di teatro, pensando al teatro contemporaneo. L'esperienza particolare in quanto diciamo coinvolge direttamente da un punto di vista proprio autobiografico le persone che ne sono state e ne sono tuttora l'anima e il cuore, che sono Stefano Pasquini e Paola Berselli. Sì. Loro hanno cominciato diciamo dal 2000 questo racconto della loro esperienza di teatranti cittadini bolognesi che hanno lasciato la città per venire a vivere in campagna, abbandonando il teatro e tutto il movimento sociale e politico che in quegli anni animava Bologna. Loro arrivarono qui nell'autunno dell'89, come dicono spesso nei loro spettacoli, contemporaneamente alla caduta del muro di Berlino, quindi alla fine di un'epoca. Loro hanno abbandonato il teatro, hanno abbandonato la città e sono venuti a vivere qui lontano praticamente da tutto e da tutti, in una situazione completamente nuova. Da qui è rinato questo sentimento del teatro, questo desiderio del teatro, e hanno ricominciato fino ad arrivare nel 2000 a costruire questo lavoro che si chiama Teatro da Mangiare, oramai celeberrimo in Italia, ma non solo, ma anche in Europa, in Francia, sono ormai 900 repliche, oltre 900 repliche di questo spettacolo, dove raccontano come sono arrivati qui e il perché, e lo fanno attorno a un tavolo, cucinando i prodotti che coltivano nella loro terra. Da qui è è partito lo spunto anche dopo anche tante altre esperienze che abbiamo fatto insieme, perché abbiamo fatto progetti simili a questo di La Valsa Moggia, abbiamo già fatti fuori anche dall'Italia, abbiamo fatto in Francia, a Calais, abbiamo fatti in Veneto, a Milano, stiamo per andare a farne un altro a gennaio sempre in Francia. Bene. E da qui è partito, appunto, vista la vicenda della fusione di questi comuni che ci ha coinvolto appunto in quanto cittadini eccetera, e abbiamo pensato, ma perché è da tanto tempo che pensiamo, che pensavamo di fare qualcosa del genere sul nostro territorio, col quale ovviamente dove vivi è sempre, c'è sempre un rapporto molto complicato, no, nel posto dove vivi, e non c'eravamo mai riusciti, insomma, non eravamo mai riusciti ad affrontare, a pensare, a immaginare un progetto che coinvolgesse il nostro territorio in questo modo. E abbiamo provato, ricominciando da noi, insomma, da questo Teatro da Mangiare, che abbiamo portato in tournée tutta l'estate in luoghi, non, in luoghi del nostro territorio non istituzionali, non legati al teatro, anzi quasi completamente strani al teatro. Sì. E la cosa, insomma, è stata filmata, documentata, e adesso sto cercando di raccontarla, soprattutto nella parte dove i cittadini e gli spettatori e le persone che abbiamo incontrato hanno partecipato a questa avventura, a questo viaggio. Bene. Quindi è un viaggio all'interno del nostro mondo che abbiamo conosciuto un po' meglio, per fortuna, per questa esperienza. Senti, oltre a questa doppia presentazione, perché ce ne sarà anche una la settimana successiva, e per un pubblico più vasto, come sarà fruibile più in là? Beh, ci stiamo pensando, perché adesso noi, diciamo, il Teatro dell'Arietta a marzo sarà a Bologna in residenza per un mese, nell'ambito di una, diciamo, di una monografia all'Arena del Sole, però nello specifico in uno spazio del Teatro delle Moline, che è un piccolo teatro che si trova proprio nel cuore della città universitaria di Bologna, e lì faremo, cioè, l'idea di presentare un po' anche di questi materiali non prettamente teatrali che negli anni abbiamo realizzato, che sono appunto altri film, altri documentari che abbiamo fatto lontano, molto lontano da casa, ma anche questo, stavamo proprio parlando di qualche minuto fa, infatti, di presentarlo anche lì. Poi adesso vedremo un po' se anche quale sarà la risposta, certo, del nostro, certo, diciamo, del nostro territorio. A questo punto ci diamo appuntamento per le novità, così magari renderemo noto il modo in cui sarà possibile vedere il documentario. Sì, noi adesso stiamo anche immaginando più avanti, quando si calmano un po' le acque, perché adesso c'è molto molto fermento, di aprire uno spazio all'interno del sito del Teatro delle Ariete dove si potranno vedere i film che noi abbiamo realizzato in questi anni, per cui anche questa, cioè, è una cosa ancora un po' in cantiere, ma proprio per ovviare i problemi della fatidica distribuzione, certo, problemi ormai che non siamo in grado di risolvere direttamente, ma che, insomma, ci piacerebbe comunque che questi lavori vengano, insomma, fruiti il più possibile. Va bene, allora, quindi il riferimento sarà il sito internet del Teatro delle Ariette. Sì, io poi uno spazio mio personale, ma anche di altre cose, no? Sì, insomma, diciamo che per questi progetti è meglio comunque seguire le informazioni dal sito del Teatro delle Ariette. Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie mille. A presto, ciao. Ciao. Stefano Massari, regista del documentario Valsa Moggia, La vita attorno a un tavolo, che sarà presentato a Bazzano sabato 26 settembre. E poi chissà. Di nuovo con noi Giovanni Andrea Semerano per parlare di Ingirum Imus Nocte e Consumi Mur Igni, rassegna d'arte permanente d'arte cinematografica, la seconda parte, al Centro Culturale La Camera Verde qui a Roma da oggi 24 settembre fino al 15 ottobre. Andrea, ben ritrovato. Grazie visionari, grazie a te per questa finestra ancora una volta. È bello stare in mezzo ai visionari. Senti, un titolo latino, per chi non lo conoscesse, cosa avete dire? È il nome della rassegna che teniamo insomma tutto l'anno, è una rassegna aperta che comincia praticamente dal 1 gennaio e finisce il 31 dicembre dell'anno. È una rassegna permanente dove tutti i giorni creiamo poi delle sottorassegne in Camera Verde. È il palindromo, uno dei palindromi più famosi, nonché l'ultimo film di Guy Debord, quindi giochiamo con questo riferimento. Oggi riapriamo dopo l'estate, dopo l'avventura estiva nelle piane di bronzo a Toscania di Luigi Francini con la rassegna What Film, e oggi riprendiamo l'attività presso la Camera Verde, che siamo in via Giovanni Miani, dietro la piramide, e cominciamo alle 20:30 con la proiezione della Camera Verde di Truffaut. Domani invece sabato stiamo con Godard, con l'ultimo Godard, quello dell'Eloge dell'Amour, Notre Musique e Film Socialist. E poi tutto il programma fino al 15 ottobre, questa prima parte di questa seconda parte. E ogni giorno insomma c'è una situazione, ci sono dei film, il programma può essere visto per intero sul sito della Camera Verde, www.lacameraverde.com. Senti Andrea, che caratteristiche hanno questi lavori che quotidianamente portate in rassegna? Ma intanto c'è l'idea di mantenere viva una memoria, che è quella memoria che ci ha permesso, insomma, e ci permette ancora tutt'oggi di pensare, per cui c'è l'idea di proiettare intanto quei film che sono necessari alla visione, sono necessari a costruire un'esperienza nello spettatore e nelle persone che si avvicinano al cinema, per cui siamo orientati come proiezione di film legati a un certo tipo di percorso autoriale. C'è Godard, c'è Rossellini, c'è Truffaut, c'è Debord, c'è John Ford, ci sono tutti loro. E poi all'interno di queste rassegne filmiche presentiamo di volta in volta libri, mostre di fotografie e di pittura che nascono sempre all'interno della Camera Verde. Il 10 ottobre ad esempio facciamo un omaggio a Jean-Henri Fabre presentando insomma tutti i suoi volumi del 1928, l'entomologo Fabre, e associando all'esposizione dei libri suoi presentiamo una collezione d'artista dell'artista Matthias Guerra, che ti saluta, che ti conosce, e quindi giochiamo in questa maniera qua. Sì, sì, Fabre sì. Moriva l'11 ottobre del 1915, quindi l'11 ottobre del 2015 in Camera Verde portiamo i suoi insetti, con Matthias lo ricordiamo in questa maniera qua. Insomma, cerchiamo di mantenere non le memorie, di trasformarle, insomma, di cercare di lavorare continuamente con le memorie, trasformarle, renderle poi presenti a noi stessi come dovrebbero essere. Sì, sì, sì. Il gioco più o meno è questo, quello della Camera Verde. Senti Andrea, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti nuovamente per la programmazione? Sì, allora la Camera Verde, potete vedere il programma sul sito lacameraverde.com, il numero di telefono è 340-5263-877, le proiezioni sono tutte a ingresso libero, c'è una tessera annuale che viene a 20 euro e tutto qua. Questo. Benissimo. Allora Andrea, io t'abbraccio e a sentirci presto. Grazie Federico, un abbraccio a te e viva la Bionda Rossa. Ciao, viva sempre. ciao Federico. Andrea Semerano su Ingirum Imus Nocte et Consumimur Igni, rassegna permanente d'arte cinematografica, la seconda parte da oggi 24 settembre al 15 ottobre presso il Centro Culturale La Camera Verde qui a Roma. In collegamento con Claudia Bedogni di Satin Film sulla distribuzione del film Un mondo fragile, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti voi. Ci cogliete in macchina, siamo appena sbarcati a Firenze per l'anteprima fiorentina, quindi sono proprio qua con il regista Cesare Acevedo e il nostro illuminatissimo esercente fiorentino, quindi se sentite un po' di movimento, è molto creativa questa cosa. È molto creativa. Senti, poi chiaramente saluteremo il regista. Ieri sera sono riuscito a vedere il film e gli faccio i complimenti. Per chi ci ascolta, Un mondo fragile, di cosa si parla, Claudia? Ma l'apertura del film dice tutta. Vediamo questo signore anziano che con una valigia si incammina per una strada di campagna circondato da altissime piantagioni di canna da zucchero. È un mondo apparentemente lontano, affascinante, quasi con un sapore antico e appunto ancestrale, ma in realtà molto vicino a noi, perché narra di questo signore che torna nella sua casa dopo 17 anni e la trova appunto completamente ricoperta da piantagioni di canna da zucchero, le cui ceneri, perché per raccogliere lo zucchero vengono appunto tagliate le foglie, ricadono sulla casa, provocando gravi danni alla salute del figlio. E dicevo vicino a noi perché i temi trattati in questo film sono temi appunto molto importanti, molto anche scottanti. È una storia personale, ispirata appunto a una vicenda personale, a un dolore personale del regista, ma in realtà parla appunto di ambiente, di dolore della terra che soffre a causa dello sfruttamento forsennato da parte dei grandi latifondi, quindi che portano i piccoli proprietari terrieri ad abbandonare le loro terre. Parla appunto della sofferenza anche fisica che il lavoro della terra produce quando non c'è nessuna tutela per i porteros, in questo caso che sono appunto i tagliatori delle canne, però parla anche di forte attaccamento e di amore verso la terra, rappresentata dalla moglie appunto del nostro protagonista Alfonso, che ritrova e che non vuole lasciare questo posto, che ormai è un posto infelice, un posto di dolore, ma in realtà è la sua terra, quella che un tempo era la sua bellissima fazenda, con appunto con animali, con colori, con luci, gli uccellini che nonostante tutto, il cui canto il nonno cerca appunto di insegnarlo al piccolo nipote che sta crescendo appunto in questo contesto. Quindi è un film importante che, oltre a dei meriti prettamente artistici e estetici, infatti per questo è stato premiato con la Camera d'Or a Cannes, anche dei valori, esalta dei valori che sono forti, che sono importanti, tra l'altro anche di grande attualità. Noi infatti ci siamo ispirati per il titolo italiano Un mondo fragile è una citazione di Papa Francesco nella sua enciclica, la prima enciclica verde, che è proprio un passo in avanti della Chiesa, non solo spirituale ma anche proprio di peso di coscienza della fragilità del mondo che ci circonda, del brio di dolore della terra, e quindi abbiamo proprio sposato questa sua causa, e soprattutto siamo orgogliosi di aver ottenuto il patrocinio di Slow Food per la distribuzione in Italia, che da sempre è in prima linea proprio per la protezione della biodiversità, per la protezione dei più deboli e soprattutto per la tutela dei piccoli proprietari, appunto a fronte di questo utilizzo invece forsennato della terra, quindi dello sfruttamento delle coltivazioni. Oh, un luogo indefinito, dei tempi dilatati e un'attenzione molto precisa sulle dinamiche interpersonali, sia sul posto di lavoro, in questo caso tra i tagliatori di canne, sia soprattutto all'interno della famiglia. Insomma, tutte queste dinamiche di relazione, di sentimenti. Claudia, volevo sapere anche per chi ci ascolta qual è la filosofia distributiva della Satin Film. Ma noi siamo veramente molto orgogliosi di aver portato in sala questo film e vediamo Cesare con noi da qualche giorno. Abbiamo appunto iniziato con una bellissima anteprima nel cuore di Slow Food a Bra, la presenza appunto del fondatore Carlo Petrini. La risposta del pubblico è bella, è molto toccante, perché nonostante parliamo appunto di un tipo di cinema, anche se vuoi antico, che viene un po' definito da festival, io trovo anche ingiustamente. Infatti la nostra sfida è quello sempre di cercare film invece che raggiungono lo spettatore, anche se sono quei film considerati impegnati, difficili, non di puro intrattenimento. Credo che noi distributori abbiamo una grande responsabilità e anche uno strumento straordinario, uno strumento che è molto versatile, perché con il cinema si può intrattenere ma si possono anche comunicare dei messaggi importanti, e attraverso questo film abbiamo appreso tante cose per il mondo appunto colombiano, il mondo delle piantagioni da zucchero, che poi alla fine non è poi così distante da noi, da quello che accade anche in Italia, dai problemi che abbiamo visto con il caporalato che ci sono da sempre. E la filosofia dell'assassino è quella proprio di cercare di portare al pubblico film che comunque, oltre alla gioia della visione, che comunque c'è sempre una gioia, perché anche questo film è un atto di dolore ma anche di amore, e quindi il messaggio alla fine è sempre positivo, che ci fanno però proprio riflettere sulla realtà che ci circonda. E fino ad ora il pubblico, devo dire, ci ha seguito, pensiamo appunto alla Bava Monroe, anche a Salamiotipo, per una concezione, se vogliamo, più leggera, più appunto in un quadro di commedia, comunque ha portato all'attenzione anche la difficoltà, no, nelle relazioni interpersonali quando ci sono dei conflitti culturali, dei conflitti di classe. Speriamo di poter continuare a trovare dei film così belli, così importanti, soprattutto speriamo che poi il mercato cinematografico, che chiaramente sceglie delle logiche di valorizzazione, premia film maggiormente di impatto commerciale, ci permetta comunque di poter continuare a fare questo tipo di attività. Questo è il nostro augurio principale, diciamo. Claudia, due cose. Intanto, in quante copie esce oggi il film? E poi, se ci fai, ci passi il regista per un saluto. Assolutamente sì, anzi, con me vi dico subito che usciamo con 18 copie, molto ben selezionate, in sale che proprio curano il film, amano il film, e ora sono appunto in casa Spensen, che ha sempre curato la nostra distribuzione con un pubblico molto fidelizzato. E quindi è una bellissima uscita in un momento tra l'altro molto caldo della stagione, la stampa ci ha seguito, quindi devo dire che fino ad ora c'è stata una grandissima attenzione, e sono molto contenta e colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che si sono avvicinate a questo film con grande affetto, con grande stima, nei confronti di, che ricordiamo è un giovanissimo regista, perché ha fatto questo film che aveva poco più di 20 anni, e che adesso vi passo per un saluto. Va bene, grazie. Ciao Claudia. Hola, ¿cómo están? Ciao Cesar. Allora, ti volevo dire intanto grazie per il tuo film, e poi ti volevo anche portare i saluti di Visionari, la trasmissione di cinema di Radio Onda Rossa. Che disfrutan la película muy honesta, muy humana, y sé que van a encontrar muchas cosas valiosas. Allora, un abbraccio e speriamo alla prossima. Bueno, ciao Cesar. Ciao. Ciao. Bene, questo era Cesar Augusto Acevedo per parlare insieme a Claudia Bedogni di Satin Film della distribuzione del film Un mondo fragile, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. E ritroviamo a Visionari anche Vincenzo Marra, regista del film La prima luce, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. Vincenzo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti. Allora, ti premetto subito, non ho avuto modo di vedere il film, non ero a Venezia, però mi incuriosiva molto questa storia, insomma ti conosco e so di questa storia. Allora, racconta un po' in poche parole, per chi ci ascolta, di cosa si parla nel film. Si racconta uno dei casi ad oggi sempre più sulla bocca di tutti, cioè un caso di sottrazione internazionale ai minori, e c'è quella situazione che si viene a creare quando una coppia mista litiga, decide di separarsi e uno dei due genitori decide di portare con sé il minore nel suo paese di appartenenza. Mm-hmm. E, diciamo che ci sono ogni giorno di più casi planetari per questo argomento, che secondo me appunto non è ancora di facile comprensione, ma quello che mi ha animato di più è la possibilità di raccontare una storia originale, non ancora tracciata dal cinema, e in più questo tipo di storia, con tra virgolette la sparizione di uno dei due con il bambino, dava l'opportunità al cinema di esprimersi con tutto un potenziale importante. E insomma, questa è un po' la storia di questo mio film, che ha, insomma, la scommessa che abbiamo fatto è quella di essere un film che non riguarda solo un tema che è principale ed è chiaramente importante, ma la scommessa è quella che chiunque vedrà questo film si potrà identificare in dinamiche che succedono quando un amore importante finisce, quando chiunque per noi ha immaginato che una storia potesse essere per sempre e poi magari si è passati ad un conflitto importante, profondo, e in quel momento del conflitto uno quasi si è dimenticato da dove si era partito. Senti Vincenzo, su che hai voluto puntare in fase di sceneggiatura e anche nel confronto, nel lavoro con i due interpreti? Ma come al solito sulla verità, è un film nato da un bisogno, da una ricerca importante, anche su una documentazione profonda, e quindi insomma si è venuta, ho creato un, diciamo tra virgolette, una vera e propria famiglia. Riccardo Scamaccio interpreta il padre, Maria Mirassi che è un'attrice cilena la madre, un bambino Gianni Pezzola brevissimo di appena 8 anni il figlio, e quindi ho creato questa famiglia tra virgolette con verità che mi si sta riconoscendo, e di questo sono contento. Senti Vincenzo, ecco, dicevi molto, molto documentata questa storia, questo tuo lavoro. Ecco, la sofferenza è soprattutto per il piccolo, il conteso, e per chiaramente per il genitore che ne è privato, è privato della sua presenza. Ecco, come viene vissuta nelle storie che hai sentito, su cui ti sei documentato, questa situazione? È un capitolo di dolore infinito a 360 gradi. Io con il mio film non c'è una posizione rispetto al padre o alla madre, o una madre rispetto al padre. Non è il mio film nasce, cioè finisce con un augurio, e cioè che è quello che alla fine chi vedrà il film, spero, che purtroppo per lui per loro conflitto in atto, sta per fare un casino a livello sentimentale, personale, ci sono dei figli di mezzo, ecco. La speranza è che si possa fare intelligentemente due passi indietro, perché poi un bambino si fa con amore, si fa in due, e si ha bisogno sempre e comunque del padre e della madre. E quindi l'idea che qualcuno ha di avere una supremazia, possa essere da parte della madre, possa essere da parte del padre, secondo me è una cosa antistorica, è un concetto arretrato, se ne potrà discutere fino alla fine, ma non è che siccome uno ha un sesso diverso ha un'egemonia, i bambini prima di loro sono, prima di tutto sono di loro stessi, e poi hanno diritti. Quello di avere un padre e una madre, se uno dei due o entrambi a un certo punto rinnegano quelle scelte, rinnegano con odio, con disprezzo dell'altro, beh, peggio per te, e uno dovrebbe fare, ripeto, passi indietro per amore del figlio, perché il figlio non c'entra niente, è stato fatto magari appunto un momento di amore. E questo, al di là di tutta la retorica, è una cosa che va salvaguardata, perché è lì che si vede l'affetto. Sì. L'affetto verso un altro non si fa su un egoismo, si fa sull'altruismo. Vincenzo, da oggi nelle sale, in quante copie uscirà? Siamo in 77 copie in tutto il territorio nazionale. Beh, una bella uscita. Isole comprese, a Roma sarà Greenwich, alle Quattro Fontane, al Giulio Cesare, al Tibur, UG Cinema, e quindi spero che ci sarà modo di vederlo, tanti, e soprattutto che appunto la scommessa è che molte persone, rispetto alle, abbiamo fatto la proiezione di Venezia, abbiamo fatto anteprima a Roma, anteprima a Milano, e insomma c'è molta, sono molto contento perché al di là del tema, ripeto, le persone si identificano e questa è in dinamiche che gli sono successe, e quando succede questo ti dà ancora un po' di senso al nostro lavoro. Mm-hmm. Vincenzo, è stato un piacere, io ti ringrazio. Io. Speriamo alla prossima e a presto, insomma. Speriamo, io me la cavo. Ciao, un abbraccio. Ciao. Vincenzo Marra, regista del film La Prima Luce, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni le trovate sempre sul sito alla voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci in collegamento per quanto riguarda un altro film in uscita oggi con Alberto Fasulo, regista del documentario Genitori. Ci eravamo sentiti ad agosto in vista della partecipazione al Festival di Locarno, ci eravamo promessi in diretta che ci saremmo sentiti per l'uscita in sala e così è stato. Alberto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Genitori, allora di nuovo raccontiamo la storia di questo film, Alberto. Beh, Genitori è un film che nasce dal basso, da proprio i genitori di un gruppo di mutuo autoaiuto che hanno figli diversamente abili. Genitori è un film che in qualche modo dà voce a loro, alla loro famiglia, alle loro esperienze, e che dopo un'ora e mezza in qualche modo si cerca, e sembra anche che, visto le critiche, sembra di esserci riusciti nell'abbattere questo muro di differenza tra un'esperienza genitoriale di diversamente abile o uno no, insomma. Mm-hmm. Genitori è un film documentario che in qualche modo ricolloca il valore del dialogo, del confronto aperto in modo centrale, soprattutto anche attraverso l'ascolto. È un film d'ascolto, è un film di attenzione rivolto verso colui che parla, è un film di parola, ma che poi nel suo svolgersi l'immaginazione ha un ruolo fondamentale. Mm-hmm. Senti, in questo loro auto-organizzarsi, questi genitori di figli diversamente abili riescono in qualche modo a superare questo muro che dicevi di indifferenza e di marginalizzazione? Beh, diciamo che una cosa che ho scoperto nei 5 anni di lavorazione è che comunque siamo tutti molto consapevoli che non esistono le formule magiche. Mm-hmm. Però la condivisione, l'unione, lo stare insieme sono un grande antidoto per forse la difficoltà più grande che queste famiglie e queste esperienze hanno, cioè l'isolamento. Questa condivisione ha portato sicuramente a risolvere molti delle problematicità e degli aspetti. Poi è anche vero che molti problemi non si possono risolvere, però nell'ascoltare l'altro, nell'ascoltare gli altri punti di vista, insomma, ci si crea un'opinione più vasta, e quindi diciamo che la cultura proprio personale si amplia. Senti, umanamente e dal punto di vista cinematografico, come ti sei posto di fronte a questa sofferenza e anche questo spirito di iniziativa? Alla pari, diretto, di fronte, allo stesso piano e sullo stesso orizzonte. Non mi sono mai sentito immune, non mi sono mai sentito diverso, perché solo perché io ho due figli normali, non diversamente abili. So e ho capito che dalla disabilità nessuno è immune, da un momento all'altro qualunque cosa può succedere, e quindi diciamo che il mio approccio è stato proprio quello di sedermi lì in questo cerchio, in questo gruppo di persone, e di mettermi in ascolto e empaticamente di ascoltare. Quindi questo è stato l'approccio. Il film, diciamo che come in ogni mio film c'è una scommessa artistica, che è quella di non far vedere nessun disabile, che è quella di credere che dentro un gruppo così si possa stare molto volentieri anche per un'ora e mezza. Questa mi sembra una scommessa vinta, visto già gli ottimi risultati che ha avuto il film. Credo che cinematograficamente questo sia un film molto civile, politicamente schierato, politicamente nel senso profondo del termine, nel senso che l'operazione qui era appunto dare voce a chi è sempre in secondo ordine, sempre in qualche modo anche a casa isolato, e questo mi sembra che sia riuscito, ecco. Alberto, mi dicevi di un'esperienza auto-organizzata, ecco, il ruolo delle strutture pubbliche per quanto riguarda il sostegno? Beh, qui c'è molto da dire, insomma, io poi non sono un regista, non sono un operatore sociale, quindi mi prendo anche, diciamo, sì, non posso essere esaustivo. Certo c'è molto da fare, specie questo è emerso anche a Locarno, dove il film aveva una platea internazionale e dove appunto molte associazioni, esempi analoghi, si sono confrontati dopo il film. Le istituzioni, sai, da un lato c'è un obbligo morale, c'è un obbligo etico anche, però queste famiglie, queste esperienze non hanno bisogno solo delle strutture, hanno bisogno proprio anche di sentirsi parte di una comunità, cosa che molto spesso invece quello che si tenta è quello, almeno le soluzioni danno comunque, no, un posto, e quindi creano questo isolamento, no? Questa ghettizzazione dei diversi. Ecco, questo credo che sia un problema ancora più profondo nella nostra società, ma è anche vero che se il genitore è riuscito nel momento in cui qualunque spettatore, vedendo il film, si sente partecipe, si sente empaticamente vicino con un genitore che ha un figlio diverso dal suo. Alberto, da oggi nelle sale che modalità distributive avete scelto? Beh, diciamo che dopo l'esperienza di TIR ci siamo mossi a ragionare di fronte al film che avevo fatto, ed è nato questa idea, secondo me interessante da verificare, ma mi sembra che molti la ritengono appropriata, che partirà dal Friuli inevitabilmente, anche se già il prossimo mese sarà Genova, poi arriva a Bologna e a Roma. Però molti dei cinema, dopo la finitura classica di una o due settimane, hanno scelto di lasciare il film fino a Natale, scendendo un giorno a settimana. Il film, in qualche modo, goccia dopo goccia, sarà presente, darà la possibilità di essere visto in ogni cinema, magari scendendo un orario pomeridiano anche serale, però con l'intento che questo film e questi cinema danno un servizio pubblico, cioè danno un servizio per le persone che in qualche modo hanno bisogno di un film così, perché è un film che ti mette in discussione. Ecco, una modalità credo più che almeno ci è venuta con l'Istituto Luce, con Rai Cinema, con tutte le istituzioni che hanno fatto parte. Senti, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più sui luoghi dove sarà in programmazione? Sicuramente nefertitifilm.it troverete tutte le informazioni, anche perché la produzione ha messo un servizio attivo di una persona che si occuperà proprio di collegare tutte le associazioni del mondo della disabilità con i cinema territoriali. Vogliamo vogliamo che il film arrivi e che faccia un lungo percorso, quindi potete scrivere a distribuzione@nfertitifilm.it o andare direttamente sul sito, e comunque l'Istituto Luce è il distributore ufficiale, e poi insomma Facebook, insomma il film è, se uno lo vuole trovare insomma lo trova, e poi noi lo portiamo ovunque. Bene. Alberto, io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie, buon lavoro a tutti. Ciao, ciao, ciao. Alberto Fasulo, regista del documentario Genitori, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. Francesco Clerici, regista del documentario Il gesto delle mani, presentato alla 40ª edizione dell'Aceno d'Oro. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, grazie a voi di avermi. Tra l'altro è in programmazione stasera, se non sbaglio, oggi? No. Sì. Stasera alle 6:30. Perfetto, siamo sul pezzo allora. Sì, sì, stiamo andando in macchina, per cui è proprio un on the road. Francesco, il gesto delle mani, cosa sta a significare? Ma il gesto delle mani sta a significare tante cose. È curiosa questa cosa che ogni spettatore ci vede un po' qualcosa di diverso. Cioè, qualcuno lo vede come un omaggio all'artista, in questo caso Velasco Vitali, che fa la scultura, che è l'ideatore della scultura. Qualcun altro vede come un omaggio agli artigiani che eseguono quest'idea dalla cera e la fanno diventare bronzo. Qualcun altro vede un film di fatto sulla scultura in generale, o sul tempo in particolare, visto che comunque si svolge in un tempo che non esiste, perché il film dura 77 minuti e il procedimento per la realizzazione della scultura, se tutti lavorassero in modo intenso solo su quella scultura lì, durerebbero 77 ore, per cui c'è una proporzione abbastanza diretta fra un minuto e un'ora. Un minuto di film è un'ora del lavoro della realtà, e di fatto è un omaggio al lavoro manuale e alla capacità manuale di fare le cose con quasi niente, per cui tutto il film è fatto con la scultura è fatta con aria, fuoco, mani, terra e acqua, insomma con elementi estremamente semplici. Come è venuta fuori l'idea? Ma l'idea è nata in un modo abbastanza semplice, nel senso che io da un po' di anni volevo fare un lungometraggio principalmente per immagini, con poche parole, pochi dialoghi. Sono capitato, grazie a Velasco Vitali, che è un artista con cui collaboro dal 2009, all'interno di questo spazio che è appunto da solo, è un posto fuori dal tempo, che è la Fonderia Artistica Battaglia di Milano, che è stata fondata nel 1913, e ero lì per seguire le sue sculture, per cui per seguire il procedimento delle sue sculture, e con una camera, con una macchina fotografica, e lì ho iniziato a pensare che si svolge in questo modo identico da secoli, poteva essere in qualche modo un buon luogo, una buona strada da raccontare e allo stesso tempo creare qualcosa che andasse al di là dell'insegnamento su come si fa il bronzo, che tutto sommato è una cosa che mi interessava relativamente quanto su quello di una descrizione di un lavoro manuale che esiste dall'età del bronzo, in sostanza. Senti, quali sono gli elementi del suo lavoro d'artista che ti hanno più affascinato? Gli elementi delle sue sculture che più attirano la tua attenzione? Ma sì, devo dire che lavorando con lui, oltre agli esiti estetici e ai risultati delle sue opere, che mi affascinava molto del suo lavoro era il modo di procedere, per cui questa capacità di avere un'idea e di pensare al modo migliore per svilupparla, che è una cosa che secondo me si inserisce nella storia dell'arte in un modo un pochino diverso da quello che succede oggi, che è molto più legato esclusivamente all'idea, ma che avesse a che fare molto con l'abilità manuale, spesso sua, perché poi lui, oltre ad essere scultore, anzi prima di essere scultore è anche pittore, ed è un pittore tecnicamente molto preparato e che sceglie sempre la tavolozza, il tipo di colori, i materiali in un modo che in qualche modo dicano qualcosa anche nella scelta del materiale, nel procedimento della realizzazione, e quindi in realtà da lui ho imparato questo concentrarsi sulla realizzazione dell'opera e sulla parte che separa l'idea dal momento in cui viene vista dallo spettatore, cioè tutto il procedimento. Senti, però è anche un'opera corale, nel senso poi c'è il lavoro, come dicevi all'inizio, di tutti gli artigiani che contribuiscono all'opera finale, al risultato finale. Assolutamente sì, anzi credo sia un elogio della collaborazione contro la dittatura del singolo, non so come dire. No, mi è sempre sembrato una cosa molto affascinante di quel procedimento lì, cioè che noi oggi siamo abituati ad avere il genio, l'autore, leader politico, tendiamo sempre a lasciare tutto quello che sta dietro un pochino da parte, no? Quel mondo lì invece è un mondo in cui tutto va uno dopo l'altro senza tante parole, perché loro tra di loro si parlano molto poco, ma tramite la conoscenza che è quella della cultura, cioè quella di una cultura tramandata e tramanda oralmente da secoli, per cui loro non si parlano, neanche lavorano assieme sulla stessa scultura spesso, perché ognuno ha una fase ben precisa, ma allo stesso tempo se uno sbaglia bisogna rifare tutto da capo. Mm-hmm. E secondo me è un lavoro di squadra come pochi ne esistono ancora oggi. Mm-hmm. Francesco, ci lasci dei riferimenti internet, nel senso se c'è un sito, una pagina Facebook per un calendario di proiezioni o altro? Sì, c'è tutto, c'è la pagina internet che è ilgestodellemani.com, dove si trovano tutte le proiezioni e proiezioni e festival, visto che il film sta girando molto fuori dall'Italia e anche appunto piano piano anche in Italia ce la stiamo facendo. E poi esiste la pagina Facebook e la pagina Twitter e insomma tutto quello che si può, basta digitare il gesto delle mani e si trova tutto. Un abbraccio, un in bocca al lupo e speriamo a presto. Crepi il lupo e grazie mille. Ciao Francesco. Ciao, buon lavoro, ciao. Francesco Clerici, regista del documentario Il gesto delle mani, presentato questa sera alla 40ª edizione del L'Aceno d'Oro. Eccoci con Carlo Lavagna, regista del film Arianna, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre, al quale abbiamo dedicato la foto di copertina di questa puntata settimanale di Visionari, con una foto della protagonista immersa nell'acqua delle terme dell'area del lago di Bolsena. Carlo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a tutti. Allora, raccontiamo un po' questa storia, Carlo. Sì, dunque, la storia, cioè, spero di non rivelare troppo, ma insomma, no. Sono uscite anche le notizie, spero comunque un po' sia... Comunque è la storia di una scoperta di un'identità di una ragazza di 19 anni che torna in una casa dove aveva vissuto quando era molto piccola, in cui non tornava, insomma, da allora. E questo ritorno insieme ai suoi genitori porta al riaffiorare di alcune memorie che la inducono a farsi delle domande su se stessa, perché ci sono delle cose che non tornano rispetto al proprio corpo, rispetto alla propria identità, non si sente sicura, non ha avuto le mestruazioni, ci sono insomma tutti degli elementi che la riguardano che insomma la lasciano perplessa su di sé. Lei chiede ai genitori ancora una volta perché debba prendere degli ormoni che tra l'altro le danno un fastidio ai seni, eccetera. I genitori rispondono che appunto è tutto normale, che bisogna aspettare. Lei a questo ennesimo, diciamo, rifiuto, non risposta, decide poi di intraprendere una sua ricerca che la porterà poi alla scoperta della sua vera identità, diciamo. Senti, mi sembra io l'ho visto, ti faccio i complimenti, un caso emblematico rispetto a quelle situazioni in cui la propria identità sessuale è determinata dagli altri. Eh sì, è esattamente quello che dici tu, cioè nel senso, io volevo raccontare naturalmente, vabbè, il rapporto che c'è tra la normalità, in questo caso Arianna rappresenta una forma, diciamo, di anormalità, per così dire, e il potere, no? E come quindi la società si comporta nei confronti di queste persone. Io prendo proprio un caso in flagrante, però poi spero che questo caso ovviamente si estenda a tutti, nel senso che tutti noi, penso, prima o poi nella vita ci sentiamo anche o incompresi o diversi, eccetera. E quindi è proprio una domanda sulla diversità, insomma, e sul rapporto con il potere. Senti, rispetto alla genesi del progetto, come viene fuori? Guarda, in realtà il progetto ha una genesi fin troppo lunga, perché da una parte io avevo, insomma, da piccolo facevo questi sogni in cui sognavo di essere donna e quindi mi svegliavo da questi sogni così abbastanza confuso, questa traccia poi mi è rimasta dentro questa domanda, diciamo, cioè un po' esistenziale sul perché uno è in un modo o non in un altro, me la sono portata poi dietro. E poi a un certo punto, quando sono andata a vivere negli Stati Uniti, volevo farne un documentario. Ho cominciato ad indagare sulle primissime associazioni che c'erano in America in quel periodo e niente, e poi questo documentario in realtà è diventato l'idea di un film che ho deciso di fare in Italia, ecco, capito? Senti, sull'ermafroditismo, rispetto io, ecco, scuso se sentite solo degli strani rumori, perché sono in viaggio e quindi c'è il telefono che ogni tanto fa delle strane cose, mi scuso con tutti. Per ora va bene, non abbiamo... ok, avvertitemi. Dicevo, sulla questione ermafroditismo, rispetto alla documentazione che hai raccolto, ecco, come viene affrontata per lo più? Ma sai, allora innanzitutto ci sono varie questioni da chiarire, perché da una parte la terminologia è un problema fondamentale, cioè per esempio la parola ermafrodito è una parola che le associazioni giustamente non vogliono che venga utilizzata, perché rappresenta anche altro, perché ha anche una serie di significati che vengono da altrove, dalla mitologia eccetera, che non hanno nulla a che fare poi con queste condizioni. Okay. Quindi viene affrontato comunque nel caso la cosa principale che ci tengo a dire è che secondo me in molti di questi casi le persone vengono operate per essere rese in un modo o in un altro, cioè per essere di un maschio o femmina, quando a volte, non sempre naturalmente, questa cosa non è necessaria. Quindi c'è una forzatura estetica o culturale su dei corpi che potrebbero invece essere lasciati in pace. Anche biologica la forzatura, insomma. E ovviamente è chiaro che è una portata biologica, perché poi si interviene sul corpo, quindi è ovvio che insomma è proprio un atteggiamento che va comunque approfondito. Cioè invito le persone che sono interessate ad approfondire, perché è abbastanza ampio e complesso questo insomma soggetto, però è così, in questo modo. E cosa rivendicano le strutture, le associazioni che invece rivendicano la propria identità? Rivendicano da una parte che si appunto ponga fine a queste operazioni inutili, che sono appunto operazioni, come dicevo prima, estetiche, quindi non più una normalizzazione forzata. E dall'altra parte che ci sia un riconoscimento dei diritti laddove appunto queste persone vogliano essere riconosciute come, ma laddove questa cosa succeda, perché non succede sempre, però dove volessero essere riconosciute come persone appunto a sé, cioè che gli venga riconosciuto il proprio statuto. Mm-hmm. Come hai lavorato con gli attori e le attrici in... Ho lavorato, grazie al cielo, guarda, questo film è un film fatto tutto con la forza di poche persone che si sono messe insieme, che sono appunto Tommaso Bertani, la Ring Film, Carlo Salsa che è lo sceneggiatore, insieme a Chiara Barzini, Alain Lovar, la direttrice della fotografia. Ci siamo, avevo detto a un certo punto che l'unico modo per poter fare questo film era chiudersi tutti in una casa, dormire nella casa dove avremmo girato, anche con gli attori, e provare a fare quello che normalmente non si riesce a fare per problemi di denaro, cioè delle prove prima che il film, insomma, che il film cominciasse. Ma questo ovviamente è possibile, ma ha dei costi. Noi grazie al cielo abbiamo avuto degli attori disponibili, soprattutto Ondina Quadri, che è stata straordinaria, con cui nei mesi prima abbiamo cominciato a provare le scene, e poi la scrittura e la riscrittura di queste scene avveniva anche durante le riprese, quindi è stato veramente un lavoro di squadra insieme con Blu Yoshimi, che è stata incredibile, che è la ragazza che fa Celeste, insomma un lavoro di grande coesione. Bene, allora da oggi nelle sale in quante copie, Carlo? Credo che siano una ventina di copie a Roma al Mignon stasera. Invito a tutti, se vogliono venire c'è la prima, noi saremo anche in sala presenti a presentarlo alle 8:30, e poi anche al Greenwich alle Orcine, e poi in tutta Italia, diciamo nelle grandi città, ma anche in provincia, insomma. Bene, allora andate questo fine settimana. Eh sì, è importante. Allora Carlo, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie per averci ospitato. Ciao Carlo, ciao. Ciao, ciao. Carlo Lavagna, regista del film Arianna, in uscita in sala oggi giovedì 24 settembre. Abbiamo... Carlotta Piccinini, regista del documentario Echo de Femme, che è stato, ho avuto modo di vedere quest'estate al Clorofilla Film Festival e che è in lizza anche per quanto riguarda questa sesta edizione del Via Emilia Doc Fest, della quale abbiamo parlato ad inizio trasmissione con l'organizzatrice Valentina Damiani. Allora Carlotta, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Complimenti per questo lavoro, come dicevo ho avuto modo di vederlo quest'estate, raccontiamolo un po', Carlotta. Bene, Echo de Femme è un film corale che racconta la storia di sei donne che vivono in Marocco e Tunisia in diverse zone agricole, e queste sei storie sono unite da un filo comune, ovvero queste sei donne che sono tendenzialmente isolate, molte sono analfabete, sono sfruttate in campo agricolo, hanno un sogno condiviso che è quello di emanciparsi attraverso il lavoro. E come lo fanno? Lo fanno sostenute da questo progetto di GVC Onlus insieme a CEFA, che prevede appunto la creazione di sostegno e la creazione di cooperative agricole tutte al femminile, dove le donne possono valorizzare antichi saperi come nel campo dell'agricoltura, nel campo dell'artigianato e nel campo della produzione di tappeti, e nello stesso tempo possono sperimentare un business tutto al femminile che ha come caratteristica quello di essere un business solidale. Senti, come mai la scelta... Ah, scusa, stavi finendo. Vai. No, il film racconta praticamente le storie di queste sei donne e di come vivono il loro quotidiano in relazione a questo sogno. Ecco, ti stavo chiedendo come mai questa area geografica e questa condizione di lavoro agricolo? Allora, in Marocco, per esempio, il Marocco ha una lunghissima storia di cooperativismo. La Tunisia no, perché durante il regime di Ben Ali qualsiasi tipo di forma associativa o cooperativa era vietata, perché era considerata antisistemica. Quello che condividono Marocco e Tunisia è che hanno delle vastissime aree agricole. Sì. Delle aree agricole che adesso che in questo momento storico sono abitate per lo più da donne, perché la maggior parte degli uomini, non essendoci lavoro, emigra per trovare lavoro. Quindi uno dei fenomeni indotti è quello della femminilizzazione delle campagne e dello sfruttamento lavorativo di queste donne. Queste donne lavorano come raccoglitrici di frutta 12 ore al giorno per 3 euro e sono pagate 3 euro al giorno, quindi c'è un grosso fenomeno di sfruttamento del lavoro, e quindi GUC e CEFA hanno rilevato il problema e hanno pensato di intervenire in quest'area. Senti, a fronte di questo sfruttamento c'è una capacità di far rete, di fare sistema rispetto all'auto-organizzazione? Allora, le cooperative sono state create anche per questo, nel senso che all'interno delle cooperative le donne possono confrontarsi fra di loro, le cooperative sono anche società di mutuo soccorso, e allo stesso tempo quello che si sviluppa sono delle buone, all'interno delle cooperative sono delle buone pratiche. Per esempio, molte donne volontariamente organizzano corsi di alfabetizzazione per le donne che sono analfabete, perché c'è un grandissimo tasso di analfabetizzazione che caratterizza queste zone che noi abbiamo raccontato. Scusate. A questo punto, visto che si parla di alfabetizzazione, viene naturale il pensiero che la cultura, la conoscenza siano strumenti fondamentali per la propria liberazione. Sì, infatti Zina, che è il filo è una delle protagoniste ed è la prima donna che vediamo vediamo raccontarsi nel film, ed è la storia con cui chiudiamo il film, seppur quasi analfabeta, seppur estremamente è completamente consapevole che l'emancipazione passa prima di tutto attraverso l'istruzione. Mm-hmm. E questa è una consapevolezza che hanno tutte e sei queste donne. Mm-hmm. Senti, che tipo di approccio hai avuto nel realizzare il documentario? Beh, allora, chiaramente questo è un lavoro che è nato su commissione, commissione da parte di Giuseppe. Però quello che mi è stato chiesto è stato all'inizio di fare un film diverso, cioè un film che prendesse spunto dal progetto ma che lo superasse. E quindi quello che abbiamo fatto, cioè quello che ho pensato di fare, è stato di cercare di raccontare questa storia in due modi, sia attraverso la bellezza delle immagini, quindi attraverso una ricerca fotografica molto, molto dettagliata, e poi soprattutto una parte importante a livello della narrativa c'era il suono. Noi abbiamo registrato i suoni di lavorazione nei manuali delle donne, e poi questi suoni sono stati affidati a 5 compositori che li hanno trasformati in composizioni musicali. Un'altra curiosità, Carlotta, rispetto alle autorità, che atteggiamento hanno nei confronti di queste esperienze auto-organizzate al femminile? Ma allora, guarda, scusate, ho una tosse assurda. Allora, beh, certamente le autorità sostengono questi progetti, soprattutto in Tunisia. È chiaro che per esempio in Tunisia manca molto un background anche da parte delle istituzioni, nel senso le istituzioni devono affrontare la costruzione di un nuovo sistema sociale e politico. Una delle cose che caratterizza il rapporto con le istituzioni sia in Marocco che in Tunisia è la distanza tra i ministeri, la capitale, le capitali e i grandi problemi invece che poi dopo riscontri sul terreno, che questo è un problema che abbiamo sicuramente anche in Italia, ma in questi due paesi è ancora più profondo il divario. Senti, gli uomini hanno un atteggiamento collaborativo nei confronti di queste esperienze? Allora, dagli uomini c'è sicuramente in generale una tendenza alla diffidenza verso il lavoro femminile, perché c'è anche molta confusione rispetto al riconoscimento del lavoro femminile. Per esempio la donna in queste aree, sia in Marocco che in Tunisia, lavora tantissimo anche in ambito domestico, ma quello non è riconosciuto come un lavoro, sebbene lo sia. Gli uomini che abbiamo incontrato noi, che sono spesso e volentieri o mariti, cugini, fratelli, sostengono questi percorsi tutto al femminile. Chiaramente si tratta di un processo lungo, perché si tratta di un processo che dovrebbe innescare un cambiamento poi a lungo periodo nelle mentalità di queste micro società. Qualcosa sta accadendo, però ci vorrà ancora un po' di tempo. Senti, allora da lunedì praticamente è online il tuo documentario, quindi ci sarà un mese per visionarlo. A questo punto io ti abbraccio, un in bocca al lupo e ci sentiamo. Grazie, la prossima. Scusate per la tosse. L'unica cosa che vorrei dire a chi guarderà il film è di guardarlo veramente o con un impianto audio molto buono o in cuffia, perché il suono ha veramente una rilevanza fondamentale in questo film, nella comprensione anche della narrativa. Un abbraccio, Carlotta. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao. Carlotta Piccinini, regista del documentario Echo de Femme, all'interno del festival online Via Emilia Doc Fest, la sesta edizione che durerà fino al 2 novembre. È tutto con Visionari, si torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Buon proseguimento, perché tra poco c'è Tracce di Cinema.